tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Volo Egyptair sembra prendere corpo l'ipotesi dell'attentato. Secondo le autopsie ci sarebbe stata un'esplosione in volo. In corso in Grecia lo sgombero del campo di Idomenia, al confine con la Macedonia. Al Brennero arrivano altri poliziotti austriaci. Pensione in anticipo, inizia il confronto tra governo e sindacati. Poletti, vogliamo intervenire già nella legge di stabilità. Firenze, dopo la morte di una donna in un incidente, indagato per omicidio stradale anche il proprietario di un'auto in divieto di sosta. A Milano, aggredito un ragazzo che indossava la kippa, incertezza se il movente sia l'antisemitismo o il bullismo. Violenze sugli anziani nella casa di riposo, un nuovo caso in Sardegna dopo Porto Torres un mese fa, questa volta a Nuoro. Ieri lo sgombero di madre e cuccioli di cinghiale dall'Università di Genova che bloccavano le lezioni, tra l'altro, ma sono migliaia, si pensa ad una rete di 7 chilometri per contenerli. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, il canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, e poi abbiamo attivato da ieri per il nostro giro per l'Italia una mappa, la trovate andando sul nostro sito www.radio24.it/effettogiorno nella sezione extra, dateci un'occhiata e diteci che cosa ne pensate. In apertura dunque le analisi che riguardano il volo Egyptair precipitato tra Parigi e il Cairo. Roberta Pellegata, buongiorno. Buongiorno, ancora non ci sono certezze sulla tragedia dell'Egyptair che è precipitato con 66 persone a bordo il 19 maggio scorso, però oggi l'ipotesi dell'esplosione in volo viene confermata dal primo rapporto di medicina legale stilato sul disastro aereo. Il rapporto del medico legale che ha analizzato i piccoli resti dei corpi indica infatti, secondo fonti vicine all'inchiesta, che un'esplosione o piccole esplosioni hanno avuto luogo a bordo dell'aereo prima che precipitasse. I resti umani finora ripescati a circa 290 chilometri al largo di Alessandria sono estremamente piccoli, tanto che sarà necessario l'esame del DNA per compiere identificazioni. Secondo lo stesso rapporto, i corpi non sono stati divorati dai pesci come anche si era ipotizzato e non si sono modificati dopo essere caduti in acqua, dunque per l'impatto. Intanto sul disastro aereo sembrano cadere anche le poche certezze che c'erano, quelle relative agli ultimi momenti prima della caduta, vale a dire le brusche virate fatte dall'Airbus segnalate nel dettaglio dalla Grecia e ora invece smentite dall'Egitto. Non c'è stata alcuna virata a destra o a sinistra, l'aereo era a posto quando è entrato nello spazio aereo egiziano, infatti dichiarato Ehab Azmi, che è il capo dell'Agenzia per l'Aeronautica Civile Egiziana. Una risposta alle tante domande la si attende dalle scatole nere che non sono ancora state ritrovate. Le ricerche proseguono attraverso un sottomarino robot egiziano in grado di operare a 3.000 metri di profondità, quella del fondale in cui si sta cercando il relitto, ricerca a cui adesso si è unito anche un ricognitore francese. E per il momento è tutto. Grazie Roberta Pellegata per questo aggiornamento. Spostiamoci su due confini, quello tra Grecia e Macedonia innanzitutto, ad Idomeni, dove stanno sgomberando il campo. Uno schieramento massiccio di polizia e interpreti pronti a spiegare ai profughi di Idomeni che si sono svegliati questa mattina all'alba e si sono trovati davanti allo sgombero del più grande campo non autorizzato della Grecia, dove da fine febbraio vivono circa 8.400 persone, ma per alcuni siamo già arrivati a 11.000. Un campo dove è accaduto di tutto, dove la violenza di bande interne ha governato sulla stanchezza di famiglie che sognavano di entrare in Europa e oggi si troveranno in un nuovo campo di accoglienza. Racconta così Livio Senigalliesi, giornalista freelance che da mesi segue i migranti e che per settimane è rimasto ai Idomeni. Anche i minori si prostituiscono, ci sono il 40% dei profughi nel campo di Idomeni sono minori, per cui dobbiamo tener conto dei più vulnerabili, sono i minori, i disabili, le donne che come al solito vengono violentate, vengono usate, i minori non accompagnati che ne passano già di tutti i colori dovrebbero essere accolti in un'altra maniera. I nuovi centri dove verranno portati dal governo greco sono centri non di accoglienza, ma sono centri di detenzione. Lo conferma anche Gabriele Casini di Save the Children, che si trova ai Idomeni. Negli altri campi in cui i profughi sono stati portati nei giorni passati, i servizi sono abbastanza scarsi, cioè non ci sono abbastanza servizi igienici, non c'è abbastanza acqua e ciò che è più grave ancora è che mancano anche i servizi legali, quindi i servizi di supporto che potrebbero permettere ai profughi di fare richiesta di asilo e di avere i loro casi comunque esaminati da degli avvocati o comunque degli esperti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'altro confine è quello del Brennero, dove sono in arrivo nuovi poliziotti dall'Austria. C'è la nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella. Sì Simone, buongiorno. I controlli in realtà cominciano anche prima a Verona e si intensificano man mano che ci si avvicini qui alla Brennero. Lungo questa frontiera con l'Austria è diventata il fronte di una battaglia prima politica, poi di cifre tra i due paesi. Noi siamo qui a Gleis am Brenner, il primo comune austriaco, e qui siamo arrivati a bordo di un Österreichische Bundesbahn, un treno diretto a Innsbruck e a Monaco, proprio come molti migranti fino a poco tempo fa continuavano a fare, prima cioè che le verifiche che anche a bordo delle forze dell'ordine chiudessero di fatto la strada per chi non fosse in regola. Al Brennero carabinieri sono saliti a bordo del treno, hanno fatto scendere degli stranieri, compresa una donna nigeriana con una bimba piccola che non voleva lasciare il treno, ma gli accordi tra Roma e Vienna ora prevedono anche questo, oltre alle verifiche sulle auto. Così le presenze di migranti sono drasticamente calate, come ci ha confermato una volontaria, Monica Weissensteiner, e l'abbiamo personalmente verificato. Le persone che poi non proseguono il viaggio vengono riaccompagnate al commissariato e poi nei centri di accoglienza. Il punto dolente, il punto della maggior tensione di queste ultime ore tra Italia e Austria, che ha portato anche allo schieramento di altri 80 poliziotti austriaci, riguarda però i passaggi illegali, cioè quelli a piedi attraverso i boschi. Intanto qui al Brennero scende anche una fitta pioggia e di sicuro in questo momento sembrano esserci molti più poliziotti che migranti, e per ora dal Brennero è tutto. E grazie a Raffaella Calandra, nostra inviata al Brennero, il tutto all'indomani della conclusione delle operazioni di voto in Austria che hanno portato all'elezione come presidente di Alexander Van der Bellen. A Vienna c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold, al quale chiediamo, Vittorio buongiorno, un ritratto di questo presidente. Sì, Alexander Van der Bellen è un indipendente con il sostegno dei Verdi, è un ex militante socialista e un europeista convinto. Il 72enne è un ex docente universitario di economia, è figlio di un padre russo e di madre estone, fuggiti dalla rivoluzione bolscevica nel 1917. Van der Bellen ha criticato duramente la linea sui migranti del governo socialdemocratico di Weimar, che poi si è dovuto dimettere, e ha già fatto sapere che non firmerà il trattato transatlantico sul libero scambio, il TTIP, così caro alle multinazionali americane. È un difensore del multiculturalismo, contro la difesa identitaria della Heimat, la patria. Van der Bellen a 72 anni si è tolto la soddisfazione di rottamare il 45enne Norman Hofer, rappresentante dell'estrema destra austriaca. Ai giardinetti per ora ci andrà Hofer, Van der Bellen invece entrerà nel palazzo monumentale e presidenziale dell'Hofburg, la residenza per intenderci dell'imperatore Francesco Giuseppe, il cui centenario della morte ricorre proprio quest'anno e il cui impero multietnico venne disintegrato proprio dai risorgenti nazionalismi. E dai, viene tutto a voi studio. Grazie a Vittorio Darold per questo ritratto del nuovo presidente austriaco. Europa alle prese con molti problemi, e tra gli altri anche quello della Grecia, di nuovo un problema economico. Oggi si riunisce l'Eurogruppo proprio su questo. Sul tavolo c'è molto di più dei 5 rotti miliardi offerti fino a qualche settimana fa. Del resto la Grecia ha fatto tutti i compiti, ha approvato l'aumento dell'IVA, ha approvato il fondo che dovrà gestire le privatizzazioni, tanto caro alla Germania, ha approvato l'autorità per contrastare contraffazioni e evasione fiscale, ha approvato il taglio alle ultime agevolazioni rimaste per le isole. Il Parlamento ellenico ha approvato anche il meccanismo che scatta in automatico se i target di bilancio non vengono raggiunti. Tutto quello che era stato chiesto, nonostante le proteste. La Grecia ha obbedito alle richieste europee, alle quali si sono aggiunte le richieste del Fondo Monetario, che però ha sempre mirato a un taglio o comunque una revisione del debito, considerando tutto il resto quasi impossibile da ottenere. Più una provocazione rivolta a Bruxelles e a Berlino che una vera lista di condizioni. Invece Bruxelles ha proseguito sulla strada delle richieste e Atene ha risposto. Oggi lo sblocco degli aiuti, 11 miliardi, sarà forse solo una formalità, l'alleggerimento del debito no. L'FMI è tornato ieri a chiedere una ristrutturazione anticipata e senza condizioni, con un tasso che non superi l'1,5% fino al 2040. Ma la resistenza della Germania è forte ed è più che probabile che Tsipras torni a casa con i soldi, ma senza un accordo sul debito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Incontro questa mattina tra governo e sindacati sulle pensioni. Come è andato? Ce lo racconta Alessandra Schepisi in diretta. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. In un clima positivo è partito il confronto tra governo e sindacati sui temi delle pensioni e del lavoro. C'è una disponibilità reciproca ad arrivare a soluzioni condivise, ha detto il ministro del lavoro Poletti al termine dell'incontro qui al Ministero di Via Veneto, durato circa 2 ore, specificando però che oggi non si è entrati nel merito, ma si è semplicemente stato definito il campo delle tematiche su cui lavorare. Siamo ai titoli, ha detto Poletti. I titoli sono la flessibilità in uscita, ma anche l'estensione degli 80 euro ai pensionati rilanciata da Renzi, la rivalutazione delle pensioni, gli ammortizzatori sociali, più in generale la crescita e l'occupazione. E poi Poletti ha aggiunto: i nostri paletti restano i vincoli di bilancio. Positivo anche il commento dei sindacati. Si è aperto un confronto che, ha detto la leader della CGIL Camusso, è già una notizia di non poco conto, perché c'è l'impegno da parte del governo di non farci trovare davanti a decisioni unilaterali. Ovviamente i sindacati restano guardinghi, per il metodo si è partiti con il piede giusto, valuteremo poi nel merito più avanti. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Sullo sfondo di tutto ciò ovviamente c'è la marcia di avvicinamento alle elezioni amministrative, prosegue il nostro viaggio. Le amministrative di Radio 24. E questa è la seconda puntata. Ieri ci siamo occupati di Milano, oggi ci occupiamo di Roma. Candidati sindaco per salvare la città più bella del mondo dal degrado delle periferie ma anche del centro. Roma si prepara alle comunali con la scure di un'amministrazione dimissionaria dallo scandalo di Mafia Capitale e dal funerale del capoclan Vittorio Casamonte. Candidati sindaco in pole position Virginia Raggi dei 5 Stelle, già consigliere comunale, mentre il PD ci riprova con Roberto Giachetti, già nella giunta Rutelli. Il centrodestra è diviso tra Alfio Marchini, indipendente, appoggiato da Forza Italia, e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, appoggiata dalla Lega. A sinistra riammesso Stefano Fassina. Oggi me sembra che sono tanti, dalle buche per le strade al trasporto pubblico disastrato, con la metropolitana C da finire, dagli autobus vecchi dove nessuno paga il biglietto, al traffico sul raccordo anulare. Il nuovo sindaco dovrà restituire alla capitale anche la bellezza del centro storico, sempre più abbandonato ad orde di turisti ineleganti, con finte trattorie dal menù bilingue, a negozi di souvenir kitsch con pasta tricolore e limoncello dentro lo stivale di vetro. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E la politica ci porta anche a parlare del referendum costituzionale che resta al centro dell'attenzione, l'analisi di Daniele Biacchessi. Sul referendum costituzionale di ottobre voluto dal premier Matteo Renzi si gioca l'ultima partita tra il PD e la sinistra. Da una parte c'è Renzi, che mette in campo l'intero apparato del suo partito, con banchetti per la raccolta delle firme, iniziative e dibattiti nelle feste dell'Unità, un manifesto per il sì firmato da 184 docenti universitari, in gran parte costituzionalisti. Dall'altra si schiera la sinistra del PD, sinistra italiana, possibile rifondazione, soprattutto arce ampie, ed è proprio nell'Associazione Nazionale dei Partigiani dove avviene lo scontro più forte e lacerante. Nell'ultimo congresso di Rimini è passata a stragrande maggioranza la linea del presidente riconfermato, Carlo Smuraglia, contraria alla riforma costituzionale del governo. Numerosi iscritti, quelli più vicini al PD, si sono però ribellati alla linea della dirigenza e minacciano ora di rimandare indietro la tessera dell'associazione. Le prime crepe si vedono a Bologna, dove all'interno dell'ANPI è in corso la raccolta di firme per il sì. D'altro canto, sul profilo Facebook dell'ANPI da diversi giorni sta andando in scena il dramma di questo scontro. E il clima che si respira tra commenti adirati e risentiti è quello di una vera e propria resa dei conti a sinistra, che ricorda in piccolo la svolta della Bolognina e la fine del PC. Così dunque l'analisi di Daniele Biacchessi, adesso c'è il traffico e poi inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia. Andremo a Milano innanzitutto, dove c'è stata l'aggressione ad un ragazzino che indossava la kippah. Ci occuperemo di Genova, dove c'è stato un problema per uno sgombero di cinghiali dall'aula di giurisprudenza, un'aula di giurisprudenza, non si riuscivano a fare le elezioni, però il problema è più esteso proprio per la diffusione di questi ungulati. Ci occuperemo delle violenze sugli anziani in una casa di riposo di Nuoro e poi la vicenda di Firenze che sta facendo molto discutere. È morta una donna in un incidente stradale, è indagato per omicidio stradale anche il proprietario di un'auto che si trovava in divieto di sosta. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del volo Egyptair per il quale prende corpo l'ipotesi dell'attentato, abbiamo parlato di quello che succede ai confini d'Europa, ai domeni dove viene sgombrato il campo e al Brennero dove arrivano altri poliziotti austriaci, abbiamo parlato del primo incontro tra governo e sindacati sulla possibilità di andare in pensione in anticipo e dell'Eurogruppo sulla Grecia anche, e adesso iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia e iniziamo da Milano, dove un ragazzo è stato di 15 anni, un ragazzo di Roma, è stato insultato e picchiato perché indossava la kippah, il tradizionale copricapo ebraico. Ha raccontato alla polizia di essere stato avvicinato da un gruppo di coetanei che lo avrebbero insultato, inseguito e colpito al volto per poi fuggire. Un episodio grave ma fortunatamente isolato, lo dice il co-presidente della comunità ebraica di Milano, Raffaele Besso, lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Il fatto che il ragazzo portasse la kippah e avessero dato degli epiteti contro gli ebrei sembra che sia un episodio di antisemitismo. La cultura va ancora creata anche e soprattutto nelle giovani generazioni, è un segnale preoccupante questo. Sì, direi di sì, perché poi tra l'altro i giovani diciamo non sanno molto, quindi è quello che sentono in giro, quindi in effetti è un problema di educazione. Si sono intensificati questa tipologia di episodi? No, direi di no, guardi, per fortuna, a parte quel Graf che era stato pugnalato, cioè, non ci sono stati altri atti, per quanto ne sappia io. Quindi per fortuna sono episodi sporadici e molto limitati, non come all'estero, in altri paesi. Questa è la storia che arriva da Milano e questa, come le altre, le troverete sulla nostra mappa. Andate sul sito di Radio 24, sezione Effetto Giorno, ci sarà il link e la troverete con tutti i nostri racconti che facciamo nell'arco delle settimane e nell'arco delle giornate. Adesso ci spostiamo a Genova. Beh, nei giorni scorsi ci siamo occupati della vicenda del problema che hanno in Veneto con le nutrie, che sono 4 milioni, erodono gli argini dei torrenti e dei fiumi, creano parecchi problemi, si è aperta una partita per l'abbattimento, è stata varata una legge per l'abbattimento che prevedeva tra l'altro nella sua versione iniziale, lo abbiamo raccontato, l'utilizzo anche di balestre e giavellotti, poi per fortuna quella parte è stata espunta dalla legge. A Genova c'è un altro problema, c'è un problema di cinghiali, perché nella giornata di ieri sono stati finalmente catturati alcuni cinghiali che si trovavano nel giardino dell'università e che praticamente impedivano di fare lezione ad alcuni studenti, impedivano d'accedere ad alcune aree. Il problema però è più ampio, perché questa popolazione si espande costantemente e in città, non solamente in città evidentemente, se ne vedono sempre di più, creano problemi, si trovano in mezzo alle strade, vanno a rovistare nella spazzatura, rovinano anche i campi naturalmente. Andrea Marsan è biologo della fauna selvatica e docente all'Università di Genova. Buongiorno Marsan. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Abbiamo un quadro di dimensione del problema, perché io facendo una ricerca su internet ho trovato che gli ultimi dati erano più o meno del 2009-2010, si parlava di 25.000 esemplari, però se non sbaglio questi si riproducono due volte l'anno e fanno una marea di cuccioli e quindi il rischio c'è, insomma, tutto sommato, che diventino un po' troppi. No, guardi, il punto non so 25.000 a cosa sono riferiti, probabilmente sono riferiti alla sola Liguria. In tutta Italia si stima la popolazione di diverse centinaia di migliaia di cinghiali, ma questa è una situazione generale che riguarda l'Italia, tutta l'Europa e tutto il mondo ricco, questo è il punto. Il mondo che ha abbandonato le coltivazioni, un tempo nei nostri monti vivevano centinaia di migliaia di persone e sfruttavano le risorse, le ghiande, le castagne. Non ci sono più, viviamo in città e queste risorse vengono utilizzate dai cinghiali che si espandono. Non è il problema, non è che si riproducano due volte all'anno, evento che si verifica molto molto raramente. Il problema è che abbiamo un ambiente che si è rinaturalizzato completamente. A noi piace guardarlo quando lo vediamo, soprattutto in Alaska o in Canada, quando ce l'abbiamo in casa e ci accorgiamo che abbiamo i cinghiali, i cervi, i caprioli e persino i lupi, ci meravigliamo. Invece non dobbiamo meravigliarci, dobbiamo assumere consapevolezza che il mondo è cambiato. Per fortuna siamo più ricchi, non siamo costretti a raccogliere le castagne per vivere, e la natura aborre i vuoti, le risorse che noi non utilizziamo li utilizzano gli animali selvatici. Certamente. In certe città, sì, come Genova, Trieste, ma Berlino, Barcellona, molto lunghe, dove esistono lunghissimi confini tra il bosco vero, abbandonato, e la città, i cinghiali fanno un passo. Se poi trovano dei cassonetti con la spazzatura, quel chilo e mezzo di cibo che buttiamo via tutti i giorni, o delle persone che gli danno da mangiare, il passo è breve. Poi si perdono e si infilano in città, ma è tutto naturale. E guarda, in questo modo appunto arrivano anche, per esempio, perché qualche ascoltatore ce lo chiede, all'interno del giardino dell'università, che non è un campo di patate, semplicemente che, come scrive l'ascoltatore, che avvicinandosi piano piano appunto arrivano fino anche fino al giardino dell'università. Come si risolve il problema? Perché io ho letto di un'ipotesi di una barriera lunga 7 chilometri, diciamo, visto che i muri vanno di moda in questo periodo. Insomma, allora, questa è la barriera. Teniamo fuori cinghiali, diciamo. No, così. Il punto è questo, che prima di tutto bisogna evitare comportamenti ineducati da parte dei cittadini, cioè la spazzatura si butta dentro i contenitori, in certe zone, come si fa in Alaska per gli orsi polari, si rende inaccessibile ai cinghiali. Bisogna evitare che le persone diano da mangiare volontariamente ai cinghiali, perché i cinghiali in città ce li abbiamo perché ci sono delle persone che alle periferie gli portano il cibo apposta, ma non parlo di un panino, io parlo di quintali di pane secco, e i cinghiali arrivano e poi si tirano in città. Dopodiché la soluzione delle barriere è stata già realizzata, una barriera elettrificata alle Cinque Terre, un lavoro che ho fatto io, lunga 7 chilometri, ma non è la più lunga. Ne abbiamo fatta adesso una con un progetto finanziato dalla Regione Liguria, lunga 3 chilometri. È il punto critico per cui cerchiamo di mantenere gli ambiti naturali per i cinghiali senza essere poi costretti ad abbatterli quando costituiscono un pericolo per i cittadini. E io, i cinghiali sono animali bellissimi, molto intelligenti, costituiscono un punto fondamentale dell'ecosistema naturale, è di questi che si nutrono i lupi, che ci piacciono tanti, però in città i cinghiali non possono stare perché costituiscono un pericolo prima di tutto per la circolazione, perché se uno è già successo, picchia col motorino. In certe condizioni i cinghiali, come tutti gli animali, non sono né buoni né cattivi, sono indifferenti. In certe situazioni possono essere una minaccia per l'incolumità delle persone o dei cani che si trovano al guinzaglio. È molto, a Genova è successo, una signora è uscita con quattro cagnolini ed è tornata con tre, ed è triste, il guinzaglio, il collare vuoto, capisce bene. Quindi è una soluzione alla quale per certe città, per certe situazioni, è necessario pensare. Si dividono i due ambiti, l'ambito naturale va per i cinghiali, per i caprioli, i cervi e anche i lupi, il nostro ce lo manteniamo per controllare. Ma brevemente, in 10 secondi, a Genova è fattibile oppure no una cosa di questo genere? Sì, è fattibile ovunque, guardi, noi siamo qui tranquillamente, stiamo parlando perché sono molto intelligenti i cinghiali, ma se noi riusciamo a liberarci dei nostri pregiudizi e guardiamo l'ambiente, vediamo che è cambiato, siamo in grado di ovviare a tutte queste cose. La ringrazio, grazie Andrea Marsan, biologo della fauna selvatica, docente all'Università di Genova, per essere stato con noi. E veniamo ad un argomento un po' più serio, che è quello di Licata e dell'abusivismo. Molto ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, abbiamo parlato del sindaco non solo minacciato, ma la cui casa è stata data alle fiamme, una parte della sua casa in campagna. È con noi, è in linea con noi, Angelo Cambiano. Buongiorno e benvenuto, sindaco. Buongiorno direttore, buongiorno. No, non sono direttore, anche se, come dire, la ringrazio per la stima. Sindaco, per parlare di due cose. Innanzitutto il fatto che ieri c'è stato un nuovo abbattimento e questo ha portato addirittura a scontri anche piuttosto violenti. Ci sono stati 5 fermi stamattina. Cosa è successo? Il clima è molto teso in città. Si vivono momenti di tensione. Purtroppo Io sono sindaco da poco più di 9 mesi. Nel mese di settembre la Procura della Repubblica ha inviato una nota al Comune di Cata con la quale chiedeva di procedere alle demolizioni. Sì. Il clima è teso perché la gente la percepisce, la popolazione, come un'ingiustizia. Queste case sono rimaste lì per 30 anni, mai nessuno ci ha detto niente. E io dico sempre che la politica ha una responsabilità, ha responsabilità gravissime, tanto quanto coloro che hanno costruito abusivamente, nella consapevolezza di perpetrare un abuso. Certo. Perché si è fatto finta di non vedere, si è fatto finta di non accorgersene. Sì. Che il territorio, sul territorio nascevano immobili abusivi, diciamo che faceva. Sì. un po' comodo a tutti. Allora, sindaco, questo l'abbiamo raccontato, l'hanno raccontato bene anche tra l'altro Oscar Giannino e Alessandro Mina nella nostra trasmissione in 24 mattino, attenti a noi due. E quello che voglio capire da lei è se A, la tensione si sta incrementando, e B, se sente un senso di solitudine maggiore, perché abbiamo visto che la manifestazione che doveva essere in sua solidarietà non è che abbia riscosso questo gran successo. Di sicuro il clima diventa sempre più rovente. Quello che è accaduto ieri sono dei fatti gravissimi. Strumentalizzare donne, utilizzare donne e bambini, si trasmettono dei valori completamente errati. Mi chiedo quando cresceranno questi bambini, riconosceranno nella divisa di un poliziotto un nemico, quindi non un alleato, quindi dei messaggi devastanti secondo me che si trasmettono alle nuove generazioni. Sul senso di isolamento, solitudine, a parte la giunta dei consiglieri comunali vicini al sindaco, 6-7 consiglieri comunali, per il resto c'è il silenzio assoluto. È un silenzio assordante da parte di tutto il mondo politico, che non ha espresso e non ha saputo esprimere una sola parola sull'argomento. Sente un po' di vuoto intorno a lei, mi sembra di capire, sindaco. Assolutamente sì, comprendo che la politica è la ricerca del consenso e non molto spesso delle cose giuste o corrette da fare, ma credo che se si riuscisse a fare quadrato su certi temi forse non si alimenterebbero tensioni, speranze, e non si alimenterebbe un clima di tensione e di violenza che fa male a tutti. La ringrazio, grazie Angelo Cambiano, grazie. Sindaco di Licata, per essere stato con noi e per essere tornato ai microfoni di Radio 24. Noi adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire cosa succede sui mercati e poi questa vicenda di Firenze che ha colpito un po' tutti, no? Una donna è morta in un incidente stradale, è stato tra l'altro un caso anche piuttosto particolare, per così dire, perché due macchine si sono scontrate, hanno colpito un semaforo, questo semaforo ha fatto cadere delle luci che sono cadute in testa alla signora che purtroppo ha perso la vita. È rimasta coinvolta anche una macchina che era in divieto di sosta e il proprietario della macchina in divieto di sosta, anche lui è indagato per omicidio stradale. Ce lo faremo spiegare dal collega Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, che si occupa sempre di queste cose. Che cosa tutto questo vuol dire? Una pausa, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: sul volo Egyptair prende corpo l'ipotesi dell'attentato, secondo le autopsie ci sarebbe stata un'esplosione in volo. In corso in Grecia lo sgombero del campo di Idomeni, al confine con la Macedonia, al Brennero arrivano altri poliziotti austriaci. Pensione in anticipo, inizia il confronto tra governo e sindacati. Poletti, vogliamo intervenire già nella legge di stabilità. La borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo nel nostro giro per l'Italia, ci spostiamo a Firenze. A Firenze, dove il 21 maggio scorso, quindi 3 giorni fa, c'è stato un grave incidente stradale, una donna è morta, ha perso la vita, c'è stato uno scontro tra due auto, una carambola che poi ha colpito un palo, un semaforo, che poi un oggetto da questo semaforo è caduto sulla signora che purtroppo ha perso la vita. Ci sono 3 indagati per omicidio stradale, i 2 conducenti delle auto e il proprietario di un'altra auto che era in divieto di sosta. E la cosa ovviamente ha stupito un po' qualcuno. In realtà Maurizio Caprino del Sole 24 Ore a quanto pare non c'è niente da stupirsi. No, non c'è niente da stupirsi, perché ovviamente chi ha parcheggiato in divieto di sosta ha violato una regola sulla circolazione stradale e come tale si è reso in qualche modo corresponsabile di quello che è successo. Poi starà alle indagini vedere in quale misura si è reso corresponsabile e quindi ripartire la responsabilità fra i tre automobilisti coinvolti, due che guidavano e uno che invece aveva solo parcheggiato. Quanto rischia in termini penali? Dunque, in termini penali la pena è esattamente identica a quella che c'era prima che venisse introdotto l'omicidio stradale, quindi da 2 a 7 anni di reclusione. Verosimilmente si andrà verso la pena minima, oltretutto è una pena alla quale si possono applicare tutti i vari benefici di cui ci siamo lamentati per anni invocando l'omicidio stradale, perlomeno l'opinione pubblica lo ha fatto, la politica lo ha fatto, però in questo caso la nuova legge sull'omicidio stradale non cambia nulla, perché rientriamo nell'ipotesi di omicidio, quella base, quindi non quella aggravata, nella quale poi scattano tutte le sanzioni nuove, quelle che effettivamente rischiano di far davvero male. E però la sostanza è questa, che lasciando la macchina in divieto di sosta si rischia di trovarsi con la fedina penale sporca. Assolutamente sì, è sempre stato così, succede una volta su 1 milione, però voglio dire, quando voi fate i ligi sul parcheggio e qualcuno vi deride, li potete tranquillamente dire: guardate, io non voglio rischiare, non ho assolutamente voglia di rischiare. Tra l'altro tu dicevi giustamente, è stata una parte del semaforo a cadere in testa poi alla vittima, quindi lì poi bisogna fare una perizia per capire quanto quel semaforo abbia resistito, quanto doveva resistere, quindi quanto ci sia un errore anche in chi ha scelto e montato quel semaforo. Quindi in ogni caso è una situazione complicata, vi andate a mettere in un mare di guai, dovete pagarvi un perito e son fior di soldi. Ti ringrazio, grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore per averci aiutato a chiarire tutto questo. E adesso ci spostiamo in Sardegna, dove questa mattina ci sono stati arresti e perquisizioni a Nuoro per violenze su anziani in una casa di riposo. Sono casi che ormai si ripetono purtroppo molto spesso solo in Sardegna. Ricordiamo il caso di Porto Torres non più tardi di un mese e mezzo fa. All'inizio dell'anno raccontammo, e sempre dalla Sardegna perché in Sardegna siamo in questo momento, un caso invece di una casa di accoglienza per disabili nella quale avvenivano violenze. Abbiamo in linea con noi Andrea Soddu, che è il sindaco di Nuoro. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Abbiamo appreso tra l'altro che in questa vicenda la direttrice del centro L'Accoglienza di Nuoro, che è questo il centro del quale parliamo, Rosanna Serra, che è finita agli arresti domiciliari, era già coinvolta lo scorso anno in un'indagine della magistratura che riguarda la stessa struttura, che nel frattempo però ha cambiato nome. Ma com'è possibile che avvenga una cosa di questo genere, sindaco? Non è che sto attribuendo la responsabilità a lei, ma in quanto persona che conosce il territorio. Ma questo è naturalmente avvenuto sulla base della normativa vigente, non in questo territorio ma in tutto l'ordinamento giuridico italiano, per cui evidentemente non c'era non è stata ravvisata nessuna causa di esclusione a che questa direttrice divenisse direttrice di una nuova compagine, nell'ambito di una nuova compagine sociale. È un fatto sul quale il comune naturalmente non può intervenire, casomai può intervenire la magistratura, che è intervenuta in questo momento, e noi aspettiamo con fiducia l'esito delle indagini e degli accertamenti da parte della magistratura inquirente. In servizi di questo genere, sindaco, voi non avete, mi diceva, alcuna responsabilità, evidentemente nessuna possibilità di intervento? Esatto, noi abbiamo, i comuni in generale hanno insieme alla ASL governano un procedimento complesso di verifica e di controllo, che però è un controllo meramente amministrativo sulla presenza magari di certificazioni, agibilità e quant'altro, ma certamente non possono controllare, non hanno nessuna giurisdizione per controllare sugli eventuali comportamenti di maltrattamenti sugli anziani, che possono essere accertati con le modalità consuete alle indagini che si svolgono, cioè mediante telecamere, raccolte di testimonianze, insomma le informazioni e quant'altro. Dal territorio registrate un incremento di questi casi oppure no? No, devo dire che non c'è un incremento dei casi, almeno nel territorio di Nuoro, del comune di Nuoro, della provincia di Nuoro, non sono, c'è sempre un grande rispetto anche nelle strutture private o pubbliche nei confronti degli anziani, per cui siamo dispiaciuti che siano o possano essere accaduti episodi del genere, però ripeto, tutto va accertato e rispetto a questi casi ci si deve prospettare con grande prudenza. La ringrazio, grazie Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, e torniamo a spostarci in Sicilia in questo caso, e andiamo invece a Palermo. Vi abbiamo raccontato ieri la storia dei commercianti stranieri che hanno denunciato il pizzo dopo 4 anni di vessazioni, prevalentemente del Bangladesh. Abbiamo in linea con noi Adam Darauscia, spero di averlo detto giusto, presidente della Consulta delle Colture del Comune di Palermo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, oggi lei ha dichiarato, noi non siamo omertosi, noi immigrati non siamo omertosi, è così? Allora, certamente è stata fatta una generalizzazione. Noi immigrati, come tanti buoni italiani, tendiamo sempre ad rispettare le leggi e la legalità, e certamente ho detto una cosa un po' più particolare, ho detto che abbiamo bassissimo tasso di omertà, perché fra di noi ci sarà pure quello omertoso, ma ci sono anche tanta gente che quando subisce un torto trova giusto denunciare, ed è la cosa normale, io non mi stupisco della normalità. Quindi, insomma, mi sembra che sia stata anche una bella soddisfazione quello che è avvenuto, cioè al di là del fatto che è emerso un fatto di criminalità grave, no? Certamente, noi già nell'assemblea della consulta del 1° aprile avevamo consegnato un elenco di tutti i commercianti che avevano subito queste vessazioni, questa estorsione, e abbiamo chiesto all'autorità competente, insomma, di darsi da fare. E devo dire che loro hanno lavorato in modo molto molto importante. La soddisfazione deriva dal fatto che gli immigrati hanno dimostrato di essere integrati con la parte buona del quartiere e della città, e questa è una cosa molto importante. La ringrazio, grazie Adam Darauscia per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. E prima di chiudere, un'ultima notizia, e che arriva da Roma: è arrivata la sentenza per la morte di Ciro Esposito, avvenuta nel 2014, lo ricorderete, la finale di Coppa Italia. Anna Marino, qual è questa sentenza? Sì, buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Poco fa i giudici della terza corte d'assise di Roma hanno deciso, è stato condannato a 26 anni di reclusione per l'omicidio di Ciro Esposito, Daniele De Santis, l'ultra romanista appunto accusato dell'omicidio del giovane avvenuto nel 2014 a Roma. Il tifoso del Napoli venne ferito gravemente, come dicevi, il 3 maggio di 2 anni fa, poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli, e morì dopo un'agonia durata 53 giorni. La sentenza era attesa da quasi 2 anni. Per quanto riguarda la madre, ha seguito quasi tutte le udienze del processo, che si è concluso appunto oggi nell'aula bunker di Rebibbia, e la mamma, la signora Antonella Leardi, ha detto: Ciro è sempre con noi. E per ora è tutto. Grazie Anna Marino per questo aggiornamento. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.